Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Speciale Bruxelles. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Come avete ascoltato anche dalla nostra sigla, è un'edizione chiaramente speciale. I temi economici tratteremo, diciamo, en passant, come punteggiatura, come hanno fatto altri programmi, come ha fatto Carlo Genta per quello che riguarda lo sport e come ha fatto anche chiaramente Oscar Giannino. Ringrazio in studio con noi di nuovo Annalita D'Ambrosio. Buonasera Annalita. Buonasera, anche se io difficilmente riesco a dire buon pomeriggio e buonasera con una giornata così. Ecco, perché la giornata sembra non finire mai. E Annalita ci terrà aggiornati su tutti quelli che sono gli sviluppi ulteriori che arriveranno in questa giornata nera, nerissima. Non, per favore, oggi lasciamo stare i messaggi, almeno oggi i messaggi polemici, chi mi scrive ma basta, parlate di economia e finanza. Faccio notare, ma forse quasi cinico, che anche la sicurezza all'interno dell'area euro è un elemento di carattere economico-finanziario, però detta così sembra veramente il regno del cinismo. Invece vorrei darvi alcuni aggiornamenti per quello che riguarda gli altri temi di questa giornata economico-finanziaria, poi parleremo come sempre e avremo anche un aggiornamento su quello che riguarda la situazione a Bruxelles e non solo, perché la situazione si sta complicando un po' in tutte le altre, in tutte le altre città. Allora, per quello che riguarda il resto della giornata, oggi dovevano esserci altri elementi di carattere economico-finanziario. Penso all'incontro che comunque ha avuto il commissario europeo agli affari economici e monetari Moscovici a Palazzo Chigi. Tra l'altro si è parlato anche di conti pubblici, poi ascolteremo una battuta del ministro Padoan su questo. Per quello che riguarda la vicenda che tratteremo a questo punto domani delle ferrovie nord-est, faccio notare che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso dossier alla Procura per quello che riguarda la due diligence, ma soprattutto le spese pazze dentro le ferrovie nord-est. E ancora, per quello che riguarda l'operazione Banco Popolare di Milano, il Banco Popolare ha spostato il Consiglio di Amministrazione a domani, quello che dovrà discutere dell'eventuale potenziale aggregazione. Sono ancora molto cauti i comunicati. In realtà sappiamo che l'operazione dovrebbe essersi sbloccata con l'aumento di capitale da 1 miliardo da parte del Banco Popolare. Faccio notare che c'è anche una buona notizia in una giornata decisamente cupa che riguarda la Ferrero, che è la prima impresa italiana per reputazione e sale al 18° posto mondiale. È la classifica che viene stilata ogni anno da Global Rep Track. Al primo posto al mondo c'è Rolex, crolla il posizionamento, e non è un mistero, di Volkswagen, che dal primo posto scende al 123° posto. Per quello che riguarda le italiane, dopo Ferrero le altre italiane si chiamano Armani, Pirelli, Barilla e Lavazza. Prima di lasciare la parola a Annalita D'Ambrosio per gli aggiornamenti, la reazione delle borse. Allora, diciamola tutta perché è inutile poi drammatizzare, mi sembra che già i fatti forniscono abbastanza dramma. Le borse, dopo uno scossone iniziale, hanno cercato di tenere la barra dritta, mettiamola così, almeno oggi. Meno 0,60% Milano, meno 0,40% Parigi, invariato Francoforte, Londra meno 0,20%, Parigi appunto meno 0,30% in questo momento, euro su dollaro 1,12. Ci sono flessioni a livello europeo, soprattutto per quello che riguarda due settori. Uno, quello delle compagnie aeree, e non ci vuole un genio per capire che quando le bombe esplodono in un aeroporto l'effetto è a cascata su tutti i titoli legati a questo settore. L'altro invece, che è più un effetto indiretto sul settore lusso, e qui vediamo una reazione anche a Milano, meno 3,80% Ferragamo, ma non solo. Perché? Perché il ragionamento è, ahimè, che, e ne parleremo più avanti con chi rappresenta gli operatori turistici, beh, insomma, anche in questo caso non ci vuole un genio della finanza per capire che se il terrore, pensate a quello che ha dichiarato poco fa da questi microfoni l'ex presidente della FGC Abete, dicendo anche gli europei in Francia potrebbero essere a rischio, a rischio non vuol dire non farli, vuol dire farli a porte chiuse, che comunque sarebbe un caso storico, mai successo. Ebbene, se questi sono i ragionamenti che si fanno, il mercato, in questo caso sì, in maniera un po' cinica, va a vendere tutti i titoli legati al flusso di stranieri che acquistano, e quindi i titoli legati al lusso. È difficile immaginare che in questo momento, a livello emotivo, qualcuno possa pianificare con serenità e leggerezza una vacanza a Parigi, una vacanza a Bruxelles, e se dobbiamo allargare, ma poi ne parleremo, ai turisti che vengono d'oltreoceano o d'oltrepacifico, beh, è difficile che, insomma, questo non abbia ripercussioni anche sulle scelte. Sappiamo purtroppo che i flussi turistici si muovono anche su grandi dosi di emotività, oltre che di ragionamenti. Annalita D'Ambrosio, il bilancio provvisorio, ripercorrendo una giornata che è iniziata, ahimè, presto, prestissimo, ma purtroppo che è peggiorata man mano che proseguiva. Le stime iniziali dei morti erano, come sempre in questi casi, va detto, prudenziali. Si parlava di 10, poi di 14, poi di 24 vittime. Il computo in questo momento? In questo momento è a 30 morti. Si era parlato per tanto tempo di 34, 14 all'aeroporto e 20 alla fermata della metropolitana di Molbeck. Poi il numero definitivo, quello che viene diffuso in questo momento, sono 206 feriti e 30 morti. Però il bilancio, purtroppo, come ha detto l'ambasciatore italiano Grassi, è destinato a salire. Sul fronte degli italiani, proprio l'ambasciatore ha riferito di 3 italiani feriti negli ospedali, però insomma in realtà tra le vittime di morti italiani fino a questo momento non ce ne sono. Le ultimissime notizie riferiscono di 2 fermi, e soprattutto sono state diffuse alcune fotografie dei probabili presunti attentatori, persone che spingono un carrello, chi è in macchina non le può aver viste, spingono un carrello con un guanto solo, e se ne parlava anche nel programma precedente. Questo guanto, ipotizzano per ora gli investigatori, potrebbe essere servito per innescare la detonazione dell'esplosione. Dopo, fra circa 10 minuti, Annalita D'Ambrosio, ci farei ascoltare anche, insomma, le voci di questa giornata drammatica. Volevo da te intanto un primo aggiornamento sulla situazione dei trasporti, perché noi abbiamo visto chiudere la stazione Gare di Nord a Parigi. Le stazioni belghe dovevano riaprire tutte tranne la stazione centrale. Prego, alle 16 hanno riaperto, quindi in particolare hanno riaperto le stazioni di Bruxelles centrale, quella nord e quella sud. Sono ovviamente chiuse quelle coinvolte nelle stragi maggiormente, Schuman, Lussemburgo e Zaventem, che è quella vicino all'aeroporto. Per quanto riguarda i voli invece, c'è un'ultima ora, perché domani i voli a Zaventem sono tutti cancellati. Si parla di 24.000 persone coinvolte, diciamo, nella sola giornata di domani, però con l'aeroporto non può riprendere. Insomma, ecco, bloccati anche tutti i voli all'Italia, per quello che riguarda, lo dico a chi avesse motivi anche di lavoro o anche privati per recarsi a Bruxelles, sono stati tutti cancellati i voli all'Italia per Bruxelles. Per quello che riguarda la riapertura, mi diceva Annalita, confermata per le 6 domani mattina? No, domani saranno chiusi per tutta la giornata. 24.000 passeggeri potrebbero essere coinvolti dal blocco di domani dell'intera giornata dell'aeroporto di Zaventem. Probabilmente l'aeroporto di Charleroi, che però è più lontano e a un'ora da Bruxelles, quello sarà maggiormente Liegi, coinvolto. Per intenderci. Certo. E che da quello che abbiamo visto che dovrebbe atterrare lì alle 22.30 anche il nostro Sergio Nava, l'aeroporto di Charleroi invece continua a essere operativo. Perché lo è sempre stato. Esatto, siamo riusciti anche, non voglio entrare nel privato, diciamo, ma a prenotare un volo, perché quell'aeroporto, essendo più distante, evidentemente non rientra nel perimetro di sicurezza in cui sostanzialmente è sottoposto a questo momento Bruxelles, e riesce ancora a essere operativo. I collegamenti Bruxelles-Parigi, ci sono novità? Ha ripreso l'attività della stazione centrale di Bruxelles, quindi prevedibilmente tra qualche ora o comunque sono in via di ripresa, diciamo, i collegamenti. È una Bruxelles che cerca di rialzarsi, ma in una situazione chiaramente di grande difficoltà e di grande paura. Per esempio, poco fa si è saputo che le bombe utilizzate all'aeroporto sicuramente contenevano chiodi, questo perché avessero un effetto ancora più... E ricordiamo agli ascoltatori, poi lo faremo con ancora maggiori dettagli, che per fortuna, mi rendo conto che dire per fortuna in questa situazione sia quasi un paradosso, per fortuna un cinturone di esplosivi non è esploso e poi è stato fatto brillare dagli artificieri. gli altri temi, per così dire, di questa giornata, ma iniziamo a parlare anche di quelle che sono già i primi ragionamenti che si fanno in questo momento. Allora, vedo già molte dichiarazioni, a partire chiaramente da quella del Presidente del Consiglio su questo, serve una risposta congiunta europea. Vorrei però collegarmi con una voce, e lo dico pubblicamente, che sta diventando un mito in questa giornata, ahimè, per lei, è quella della collaboratrice di Radio 24 da Bruxelles, Maura Bertanzon. Buonasera Maura. Buonasera a voi. Allora, dacci gli ultimi aggiornamenti sulla situazione, perché tu sei stata questa mattina, lo dico per chi si fosse appena messo in collegamento, l'ascolto, sei stata subito all'aeroporto di Bruxelles, poi sei rientrata adesso nel centro città. Dove ti trovi in questo momento? Ma in questo momento mi trovo appena dietro la Commissione europea, nell'area tra Schuman e Baalbek, che è stata delimitata dalla polizia. Vi dico subito che l'atmosfera è quella di strade veramente deserte, chiuse al traffico, il perimetro chiuso al traffico è molto più grande di quello poi effettivamente a cui si può invece accedere a piedi. Dalle voci che ho sentito, raccolto poco fa in strada, posso dirvi che molti anche dipendenti delle stesse istituzioni europee sono stati bloccati in ufficio fino a metà pomeriggio. C'era incontrato una signora che era proprio nel primo vagone della metro nel momento in cui è esplosa la bomba, mi ha raccontato appunto questo enorme botto che si è sentito e poi di seguito anche la polvere, il fatto di non riuscire a capire cosa stesse veramente succedendo. Dice lei è riuscita ad uscire, vedeva già delle persone ferite, detto, oh, penso di aver calpestato anche dei pezzi delle persone ferite uscendo dal metro, però appunto l'ho incontrata nel tardo pomeriggio quando finalmente lei si era rifugiata nel suo posto di lavoro, poi finalmente l'hanno lasciata uscire, si stava avviando, cercando il modo anche per tornare a casa. Ecco, senti Maura, dal punto di vista qui chiaramente molto molto parziale, come raccontava prima Annalita D'Ambrosio, la sensazione è che lentamente, con molta difficoltà, le autorità a Bruxelles stiano cercando, uso una parola forte, di riportare la situazione, non dico alla normalità perché sarebbe impossibile, ma a un livello un po' più accettabile, la riapertura di alcune stazioni. È quello che tu registri? Perché un conto è riaprire una stazione, un conto è avere le strade ancora deserte, come diciamo in un coprifuoco vero e proprio. Ma ovviamente la linea, quella del metro dove ci sono state le esplosioni, è chiusa, però appunto vedo anche dai siti, non ho potuto vedere di persona, ma che le altre due linee di metro che si intersecano con quella di Malbec, sembra che il traffico, almeno su quelle linee, possa tornare presto, non dico alla normalità, ma che possa circolare qualcosa, come voi dicevate prima, anche rispetto ai treni, dovrebbe riprendere la circolazione sull'asse nord-sud a Bruxelles, per cui piano piano si cerca quantomeno di dare alle persone un modo per spostarsi, per tornare verso le proprie case. A livello invece automobilistico, al di fuori del cordone di sicurezza che circonda l'area delle istituzioni europee, fino a poco fa e credo anche tuttora il traffico era assolutamente paralizzato. Su questo quanto incide la ricerca da quello che abbiamo capito, dell'unico terrorista che è ancora latitante? Perché noi vedevamo immagini, però sai come capita in questi casi, lo dico anche agli ascoltatori, sono spesso immagini tra virgolette vecchie, cioè di qualche ora prima, le teste di cuoio nelle strade di Bruxelles. Vorrei capire se in questo momento l'elemento principale del coprifuoco è rappresentato dalla ricerca del terrorista mancante. Quello che posso dirvi è che sì, come cittadini normali ci si muove a fatica, però la presenza della polizia è imponente e non saprei darvi indicazioni precise su cosa sta succedendo in altri punti della città. Di certo il dispiegamento di forze di sicurezza è massiccio, e quando un'auto della polizia, una camionetta deve passare, si trova il modo di farle spazio, quindi bene o male le forze del muovono dentro la città, ecco. Allora, torna in collegamento con noi ogni volta che ne avrai necessità. Grazie intanto a Maura Bertazzone, ringrazio anche sempre in collegamento da Bruxelles, però abbiamo qualche problema, potete immaginare che oggi insomma un po' di saturazione sulle linee telefoniche Bruxelles ci sia. Dovremmo raggiungere anche il collaboratore del Sole 24 Ore di Radio Core, Antonio Poglio Salimbeni, perché iniziano a esserci già alcune reazioni. Non ho capito come sia la qualità del collegamento, casomai riproviamo. Antonio, mi senti? Sì, ti sento. Ecco, sì. Tu mi senti, ma io meno, potremmo dire. Non so, guarda, le comunicazioni sono un problema. Eccoci, se riusciamo ad alzare il livello e il volume della voce. Antonio, la sensazione, devo dire che forse uno dei primi a dichiararlo è stato il premier Matteo Renzi, abbiamo ascoltato in diretta alle 16 praticamente il suo intervento. Insomma, è ancora presto per dirlo, ma ci sembra di capire che la linea poi politica, adesso vedremo le reazioni, ha parlato Hollande, ha parlato Barack Obama da Cuba, ma che la linea soprattutto a livello europeo sia, insomma, o noi affrontiamo il tema anche con una maggiore convergenza, coordinamento delle autorità, della sicurezza di carattere europeo, quindi servizi segreti, non voglio ricordare ogni volta come il Belgio abbia 6 tipi diversi di forze di polizia, ma il coordinamento tra servizi segreti, oppure da questo non usciamo. È l'orientamento, domani arriverà a Bruxelles Valls, ci sarà immagino anche un intervento di Juncker, è l'orientamento che tu stai registrando a livello comunitario? Ma sì, naturalmente questo del coordinamento fra le intelligence soprattutto è la questione chiave. Tra l'altro siamo di fronte a gruppi terroristici molto frammentati, per entrare nei quali ci sono legami di sangue, parentali, di amicizia lunghissima, quindi difficile collocare delle spie sostanzialmente. Quindi dall'interno qualsiasi operazione di intelligence è al momento impossibile. Si tratta di gruppi estremamente non permeabili. C'è da notare che ultimamente, nelle ultime settimane, effettivamente la collaborazione fra la polizia belga e le forze di sicurezza francesi è stata giudicata unanimemente migliore di 4 mesi fa, questo non c'è dubbio, ma certamente qui l'intelligence è completamente a terra, perché se coloro i responsabili degli attentati di Parigi sono riusciti ad albergare tranquillamente 4 mesi a Bruxelles, a Molenbeek Forest e questi certo. Limiti vuol dire proprio che si muovono ancora come pesce nell'acqua, questo è il problema. Guarda, adesso ripeto, con i morti è brutta come espressione, ma insomma ancora caldi, non vogliamo fare il processo alla sicurezza belga. Certo è che avevano appena fatto tempo a così risollevare il loro orgoglio con l'arresto, devo dire anche un po' fortuito, però insomma di Salah, che si sono beccati un'altra non so nemmeno come definirla, un'altra mazzata incredibile, perché adesso vedo circolare anche l'ipotesi che questi attentati possono essere in qualche modo non stati provocati, ma stati anticipati dalle indiscrezioni diffuse nei giorni scorsi che Salah, il terrorista arrestato, quello che mancava degli attentati diciamo a Parigi, Bataclan incluso, aveva iniziato a collaborare con le autorità di sicurezza, e alcuni stanno ipotizzando che il fatto che sia trapelata notizia che Salah stava parlando abbia portato questi terroristi silenti ad accelerare il momento dell'attentato per paura di essere poi scoperti. Detto questo, insomma, che qualcosa non stia funzionando nella sicurezza belga, perché tu non puoi cercare Salah, mettere a ferro e fuoco diciamo Bruxelles con delle sostanzialmente ricerche continue e non accorgerti a questo punto che c'era un attentato ancora più grosso rispetto a quello stimato essere di Salah che si stava predisponendo. Il problema oggettivamente in questo momento sembra essere belga, Antonio, però la reazione più immediata e forte l'abbiamo vista arrivare anche dalla Francia, perché a dimostrazione che insomma la reazione a Parigi è stata quasi automatica, Antonio. Sì, certamente la Francia è in prima battuta, è in prima linea, ma adesso in prima linea è fortemente anche il Belgio. Il problema è che può darsi che noi si capisca che il punto vero è la franco-belga. Questo da un certo punto di vista può favorire l'operazione di intelligence ed è un fatto, ma è anche vero che non è che in tutte le altre capitali si muovono, ci siano acque tranquille. In effetti qui siamo di fronte a un terrorismo che rischia di essere endemico, tante microcellule che è impossibile, probabilmente è impossibile tenere a bada. Il punto, ancora una volta, è una strategia di medio-lungo periodo, i cui frutti purtroppo non potranno che arrivare nel medio-lungo periodo, perché da un lato bisogna togliere l'acqua nella quale nuotano i terroristi e di confidare nel mondo islamico fa la denuncia a un certo punto, come è successo nel caso appunto sabato con l'arresto di Abel Slam, e naturalmente perché tra l'altro non si possono tenere città così grandi sotto militarizzazione blindate. Pura un attimo che Antonio lo stiamo riperdendo, c'è un tema che vedo sollevare anche degli ascoltatori, ripeto, tutto a tempo debito, però è indubbio, io non oso pensare quale sia l'umore in questo momento in Belgio, nel senso che dopo aver scoperto che i terroristi parigini li avevi in casa tu, dopo aver cercato per mesi Salah e averlo trovato per sbaglio, vedere che non era ancora finita, anzi c'erano, adesso il numero lo stabiliremo, si parla di 4 terroristi, vedremo, ma insomma c'erano altre cellule pronte a attivarsi che magari hanno anticipato gli attentati. Io se fossi in Belgio in questo momento mi chiederei: ma quanti ce ne sono ancora, Antonio? Perché è ovvio che superata la fase dello shock inizia la fase del ragionamento. Non c'è dubbio, qui viviamo in una situazione di incertezza a questo punto totale, però si potranno militarizzare il quartiere europeo, il quartiere dove sarà nato, che peraltro è abbastanza fuori città, diciamo fra la città e lo stesso aeroporto di Zaventem, però il punto non credo, a mio modo di vedere, non è tanto il quartiere comunitario, cioè il palazzo comunitario. Certo, la stazione è qui sotto, è sotto le finestre di molti uffici, e la gente della Commissione, del Consiglio, del Parlamento la usa e c'è da lì tutte le mattine a quell'ora, questo è il punto. Ma la stessa cosa è un cinema, la stessa cosa è un tram, la stessa cosa appunto la ferrovia. Effettivamente le nostre società non sono in grado di sopportare un livello di militarizzazione. Basta pensare che l'attentato a Zaven, pronto? Sì, sì, ti sento. Che l'attentato, oggi le comunicazioni sono impazzite, c'è stato un collasso delle comunicazioni attraverso i telefoni mobili, come sapete. L'attentato a Zaventem all'aeroporto è avvenuto nell'area che precede i controlli. Quello è il problema. Allora questo vuol dire che dobbiamo far arretrare, come succede per esempio al Parlamento Europeo. Al Parlamento Europeo non entra più nessuno nella grande hall in attesa di poter passare. Stanno tutti fuori, anche sotto l'acqua. Sì, però vedi Antonio, però il problema che si è posto a Parigi allo stadio, e cioè il terrorista che si è fatto esplodere perché intercettato, insomma, ha creato comunque un danno enorme. Allora tu non puoi dire: vabbè, io controllo l'ingresso allo stadio, il tema che toccava prima all'ex presidente Abete, e però io quando vado in fila allo stadio non posso rischiare, diciamo, di morire in fila, non so, mi interessa poco sapere che sono sicuro una volta dentro. E il problema del perimetro di sicurezza negli aeroporti, ecco perché adesso parleremo anche, non so se la Stoi sia già in collegamento, me la chiamate per favore, il perimetro di sicurezza in aeroporto, cioè tu se inizi a spostarlo fuori tu ti rendi conto che anche banalmente chi va ad aspettare un amico, un parente che è a terra si trova in un'area pericolosa. Una volta il controllo di sicurezza fino a poco tempo fa riguardava la sicurezza per chi monta in aereo, ok, ecco il perché della GX e dei controlli una volta entrati in aeroporto. Se tanto mi dà tanto, visto che appunto le esplosioni sono state fatte prima del controllo raggi X, a questo punto dovrei portare fuori il perimetro. Portare fuori il perimetro significa però, di fatto, se ho ben capito il tuo ragionamento, Antonio, spostare ancora più fuori il rischio bomba, perché comunque da qualche parte in un aeroporto un affollamento di esseri umani che lì si recano per prendere un aereo lo generi. Non c'è dubbio, appunto, non sono un gestore di no, figurati, adesso parliamo di, con di la logistica storia di questo naturalmente, però ti posso dire una cosa. Qualche sera fa sono andato all'aeroporto di Charleroi, a 55 km dalla città, ci sono i voli Ryanair, tutti i voli low cost, e all'uscita la sera c'era un'area piuttosto ristretta con due soldati armati evidenti che controllavano. Ma lo spazio era molto ridotto, c'erano 300 persone, non ci si muoveva. Chiunque poteva combinare di tutto, certo. Ed è un'uscita a un aeroporto che è il secondo aeroporto della città, dove scaricano e caricano migliaia di persone a tutte le ore. Questo è il punto. Quindi vuol dire che la guardi, i soldati c'erano in giro. E questo è il problema poi della sicurezza. Io ringrazio intanto Antonio Poglio Sonnibeni in collegamento con noi da Bruxelles. Adesso c'è il metro, la pubblicità, poi di nuovo faremo il punto con Narita D'Ambrosio sulla giornata, perché dobbiamo anche ahimè ricordare la giornata per chi fosse appena uscito adesso dal lavoro, si fosse messo adesso in collegamento, e poi con la Stoi cercheremo di capire, insomma, come reagire, se si può reagire a un ragionamento che viene che abbiamo appena introdotto. Ringrazio comunque per averci aggiunto in collegamento il presidente di Astoi Confindustria Viaggi, che sono praticamente gli operatori, i tour operator, Luca Battifora. Buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Resti con noi, Battifora, o il metro e la pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Aruba, soluzioni cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. Focus Economia. Speciale Bruxelles. Allora, Annalita D'Ambrosio, prima di tornare a Luca Battifora, vedo molti messaggi chiaramente al 349-238-6666 e anche su WhatsApp. Magari accettiamo anche i messaggi di cordoglio per le vittime, non solo di chi, sono pochi, si lamenta perché abbiamo cambiato la programmazione. Ci sono tante radio in questo panorama. Invece, prima di arrivare a come si mette in sicurezza, ripeto, la ricaduta economica, ahimè, deve iniziare a diventare un ragionamento. Più passano le ore e più chiaramente il ragionamento si deve allargare a che cosa non ha funzionato in primis nella sicurezza e nei servizi franco-belgi, a questo punto, visto che le due gendarmerie, le due polizie sono molto integrate. È obiettivamente uno schiaffo totale che a due giorni dall'arresto di Salah ci sia il più grave attentato che mai si è registrato nel territorio belga. È uno dei più gravi, perché ahimè adesso non voglio fare la classifica, ma dopo Parigi c'è chiaramente Bruxelles. E questo è un primo ragionamento. Il secondo ragionamento è cosa può fare l'Europa come reazione. Sì, va bene, anche lì attenzione che non si arriverà a qualcosa di immediato, maggiore scambio di informazioni. La difficoltà, come molti fanno notare, è che è inutile adesso, io capisco che la polemica diventerà sullo chiudere le frontiere, vabbè, chiudiamo le frontiere, però diciamoci anche una cosa, che questi ce l'abbiamo già in casa, va bene? Perché non è, da quello che abbiamo capito, non si trattava né di siriani, né afghani, né altro, per cui sicuramente non è il caso degli attentatori di Parigi, e vedremo questi qua se erano tutti provenienti da Siria, Afghanistan o Iraq, o se invece erano per caso nati e magari naturalizzati nel Belgio, e quindi diventa più difficile trovarli se sono cittadini del tuo paese. E poi c'è l'aspetto di carattere che riguarderà anche cosa succederà alle nostre vite. Domani Debra Rosciani e Nicoletta Carbone si occuperanno anche di, diciamo, da un punto di vista psicologico, di come si convive con un tasso, con un certo tasso di paura. Alcuni di voi più anziani mi scrivono ricordi di come si viveva in Italia durante il terrorismo, quando potevi rischiare. È molto diversa come situazione, però ero bambino, ma ci ricordiamo cosa fosse dal sequestro Moro in poi. Prima di arrivare a Luca Battifora, però, Annalita D'Ambrosio, ripercorriamo devo dirlo con le voci anche di che ha mandato in onda Radio 24 oggi, questa giornata difficile, difficilissima, anche perché, come sempre in questi casi, il numero di attentati e di morti e di feriti è andato via via aumentando, soprattutto nella parte delle 8:30, alle 9:30 di questa mattina. Sì, alle 8 c'è stata la prima deflagrazione all'aeroporto di Zaventem, che in quel momento era pieno perché la maggior parte dei voli sono quelli della prima mattina. E la prima deflagrazione probabilmente è stata quella provocata da un kamikaze. Poi si parla anche di una valigia con all'interno dei chiodi che è esplosa poco dopo, quindi sono state due le deflagrazioni a Zaventem. E allora iniziamo con le parole proprio di un uomo che si trovava all'aeroporto di Zaventem. Ho visto persone ferite, poliziotti che hanno perso le gambe, signore con le gambe ferite gravemente e altre che invece le hanno perse totalmente. Altre persone erano ferite all'altezza del ginocchio, ferite alle mani. Altre erano stese a terra e non si muovevano. All'aeroporto di Zaventem c'era un terzo ordigno che non è esploso. Alle 9:15 è invece esploso un altro ordigno alla fermata della metropolitana di Melbeck, che si trova a 50 metri dai palazzi delle istituzioni europee. Questa bomba ha provocato più vittime della prima. Era all'interno di un vagone ed è esplosa mentre il convoglio stava partendo, quindi ha investito anche le persone che si trovavano ferme sulla banchina. E questa è la testimonianza di una donna che è scampata per puro caso alla tragedia. Ero in metropolitana, ero al telefono con un'amica e le dicevo di aver dimenticato le chiavi a casa. Allora sono uscita dalla metropolitana e nel momento in cui attraversavo la strada ho sentito un'esplosione e tutti i vetri saltare in aria dietro di me. Tutti correvano, una signora stesa per terra, ferita. Ho chiamato mio marito, gli ho detto «Vieni a prendermi perché c'è stata un'esplosione». Lui non ha capito quello che ho detto e ho ripetuto che c'era stata un'esplosione a Malbec e io ero proprio là. Questa dunque è la testimonianza di una donna che si trovava all'interno della metro e quindi è scampata per puro caso alla tragedia. E poi c'è il tema della solidarietà, la solidarietà che conta tantissimo in questi momenti, la testimonianza di un uomo che ha soccorso i feriti che uscivano dalla metropolitana. Abbiamo sentito la deflagrazione, siamo usciti dallo stabile e una volta fuori abbiamo visto i feriti che uscivano dalla metropolitana. Abbiamo dato loro una mano, erano bruciati, ce n'erano molti, molti più di una decina. Non penso di sbagliare se dico centinaia. Non parlavano, erano sotto shock, erano persi. Quando li abbiamo visti uscire non abbiamo fatto altro che aiutarli, confortarli, dare loro acqua, fazzoletti per asciugare il sangue. Terribile. Solidarietà, unità sono le parole che in questo momento riecheggiano di più. E prima di restituirti la linea, Sebastiano, io voglio leggerti questa agenzia che riguarda le due parole, sia la solidarietà che l'unità, perché Place de la Bourse a Bruxelles è diventata, lo ricorderete, come Place de la République a Parigi. Nella piazza belga in questo momento si stanno radunando centinaia di cittadini, ce ne sono già 400, in modo spontaneo per dimostrare solidarietà e unità. E c'è un violoncellista che sta suonando in piazza mentre per terra si moltiplicano i messaggi scritti contro il terrore. Allora, Presidente Battifora, quanto siete preoccupati? Perché insomma, parliamoci chiaro, qua adesso a parte si ragionava che abbiamo mandato questa sera a Bruxelles, non penso che ci siano molti italiani che si stanno ipotizzando di trascorrere, non dico la Pasqua, ma neanche le settimane successive a Bruxelles o a Parigi, cioè, il rischio che voi vedete qual è? Di non riuscire a gestire una situazione? Il perimetro di sicurezza, per esempio, a mio avviso è, dal vostro punto di vista, il primo dei problemi. Tu puoi spostarlo fuori quanto vuoi questo perimetro di sicurezza, ma io in aeroporto prima o poi devo avvicinarmi. Sì, innanzitutto il primo pensiero, a parte tutti gli addetti ai lavori del settore, alle vittime e ai familiari, certo, che stanno vivendo questa tragedia. Più che preoccupati le direi che siamo quanto siamo determinati, perché diciamo che possiamo dividere in due le reazioni. C'è una reazione comprensiva, emotiva, umana, che colpisce chiunque, quindi anche chi vuole viaggiare, chi vuole andare in vacanza, che poi si ripercuote, specialmente se è limitrofe alle zone dove avvengono questi drammatici eventi terroristici. E poi c'è invece una reazione, se vogliamo, più invece ponderata, perché in gioco c'è il nostro stile di vita, c'è la nostra cultura, c'è il nostro vivere quotidiano. Paradossalmente questa escalation di fatti che interessano il mondo sta portando una consapevolezza, forse una maturità, non so se è la parola giusta, nel consumatore, vale a dire i posti nel mondo sicuri sono la stragrande maggioranza. Al tempo stesso non c'è un'equazione, non c'è una formula aritmetica per la quale possiamo avere certezza della massima garanzia di sicurezza dove noi ci rechiamo. Ci sono ovvio posti più a rischio e posti meno, in questo c'è la Farnesina che fa uno straordinario lavoro di informazione quotidiana. Detto questo, fortunatamente non abdichiamo la nostra cultura, perché questo è l'obiettivo di questi terroristi. Le persone continuano a viaggiare, forse in maniera più consapevole, a volte preoccupata, perché va detto, non dobbiamo nasconderci dietro un dito, però guardi, le sto parlando, sono a Fiumicino in questo momento, rientrando dalla riunione proprio in Confindustria, e domani partirò per un volo intercontinentale. Non possiamo fermarci. Allora resti con noi, Presidente, perché dopo il traffico, vi chiedo estrema brevità al traffico, per favore, oggi. Vorrei capire però, da questo punto di vista, giustissimo ragionamento che fa, vincerebbero due volte i terroristi se cambiassimo il nostro stile di vita. Mi interessa sapere che cosa avete notato voi su Parigi, non all'indomani, ma se poi questa è stata la reazione di gente che dice no, io non ho voglia di cambiare il mio stile di vita, voglio vedere Parigi, ci vado alla faccia anche nonostante i terroristi, oppure se poi in realtà una conseguenza anche, diciamo, nei flussi ci sia stata dopo il traffico. Focus Economia. Speciale Bruxelles. Allora, Presidente Battifora, giusto il suo appello a non fare vincere due volte i terroristi, l'Islam e quant'altro, a non cambiare lo stile di vita. Però poi, che cosa è successo dopo Parigi? Dopo Parigi c'è stato un effetto normale di tracollo della domanda, di annullamenti. Comunque l'intero comparto dell'industria turistica ha registrato complessivamente una flessione del 25%, con destinazioni che sono andate almeno al 50% nello 70%. Poi piano piano c'è un progressivo recupero dei consumi e anche della singola destinazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che comunque forse non vado a Parigi, ma passo le vacanze in un altro posto. Forse non parto quel giorno lì, partirò la settimana prossima, però piano piano si ritorna alla normalità, e questa è la cosa che conta, è la cosa importante. Sicuramente però degli effetti ci sono, ma posso dirle che nel nostro comparto dall'11 di settembre è cambiato completamente il modo di affrontare il tema delle vacanze e di organizzarle per i nostri connazionali. E come è cambiato? È cambiato con una maggiore flessibilità nelle destinazioni, è cambiato con una maggiore consapevolezza di informazione. Noi lavoriamo praticamente giornalmente a contatto con la Farnesina per avere certezza che nel stato dove operiamo ci siano ragionevoli condizioni di sicurezza. È cambiato anche nel consumatore, perché ripeto, la mobilità, le persone che viaggiano in aereo è aumentata nel mondo, e comunque gli indicatori sulla mobilità sono tutti in crescita anche nelle previsioni. Certo, poi ci sono destinazioni che recuperano con maggiore facilità, specialmente se queste sono di cultura e di estrazione non islamica, e destinazioni invece che soffrono di più. Oggi è indubitabile che destinazioni come la Tunisia, la Turchia o il Mar Rosso, certo, stanno soffrendo la situazione, in alcuni casi anche senza oggettivi motivi. Sì, vedremo adesso. Ho capito benissimo il suo ragionamento. Mi auguro che poi si possa tornare alla normalità. Grazie intanto anche al Presidente di Astoi e Confindustria Viaggi, Luca Battifora. Adesso c'è GR24 con altri aggiornamenti e altre notizie di questa giornata. Poi torneremo sia per la borsa sia per un appello che chiedete all'Islam moderato. Va bene, lo facciamo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. State ascoltando un programma offerto da Aruba, soluzioni cloud per le imprese. Solo su www.cloud.it. Focus Economia. Speciale Bruxelles. Le 18:10 prosegue la lunga diretta di Radio 24, iniziata ahimè questa mattina poco prima delle 9, verso le 8:30, e che continuerà, lo dico agli ascoltatori, fino a mezzanotte, nel senso che tutti i programmi avranno aggiornamenti continui e un unico tema chiaramente di fondo. Allora, dicevamo allora, il tema dell'Islam moderato, vedo molti messaggi su questo, lo affronterà più tardi anche Cruciani durante la zanzara. Non è ancora presto per parlarne. Certo è che insomma c'è un detto in Francia che dice: è vero che non tutti i musulmani sono terroristi, ma tutti i terroristi sono musulmani. E allora, da questo punto di vista, bisogna anche, diciamola tutta, che l'Islam moderato, se c'è, si faccia sentire. Voglio dire, ne sappiamo qualcosa noi col terrorismo, quando si chiedeva, diciamo, di isolare i terroristi nelle fabbriche o nei luoghi in cui essi si insediavano. Ecco, allargate il ragionamento, però è vero quello che dicono alcuni, che tutte le volte che poi c'è stata una manifestazione dell'Islam moderato era moderata anche la presenza dei musulmani a queste manifestazioni, per cui attenzione, questo tema prima o poi si dovrà porre. Penso che nell'ordine, diciamo, il primo tema che si porrà a mente un po' più fredda sarà quello della sicurezza e dei servizi di sicurezza, e ne parleremo fra poco, belgi e francesi. È innegabile che, insomma, non è pensabile tenere una città a setaccio per 4 mesi per cercare Salah e arrivare a questo risultato, che Salah lo becchi per sbaglio e nel frattempo questi rimodulano l'attentato, da quello che sta emergendo, e lo anticipano proprio perché l'avvocato di Salah fa sapere che Salah sta parlando e collaborando. E se tu passi una città come Bruxelles a setaccio e questi sono i risultati, qualcosa nel setaccio non ha funzionato, possiamo dirlo almeno questo? Allora, le borse innanzitutto, per quello che riguarda le azioni dei mercati, subito molto nervose, poi hanno chiuso tutte sulla parità, sia Parigi che Bruxelles, Francoforte più 0,40, Londra più 0,13, Milano invariata. Ne hanno risentito soprattutto i titoli del lusso, come ricordavamo in apertura del programma. Ferragamo perde 3,40, ha perso 3,40%, ma non è l'unico, e ancora altri titoli, penso a mi sono comparti meglio, Moncler ha recuperato, poi qualche calo su alcune banche, Mediobanca meno 1,85, Montepaschi meno 2,34%. Parleremo, dobbiamo dare anche un po' di cronaca della giornata economico-finanziaria della Popolare di Milano, perché è arrivato il via libera di fatto da parte della Banca Centrale Europea alla fusione Banco Popolare e Popolare di Milano. Però, andando con ordine, l'aggiornamento dei mercati finanziari, come sempre con Radio Core, Il Sole 24 Ore, e mi riferisco oggi nella persona di Ceo Condina. Buonasera Ceo. Ciao, buonasera a tutti. Molto nervosismo, ma devo dire anche la capacità poi di tenere i nervi saldi. Sì, dai, diciamo un'estrema volatilità, come poi è tradizione delle ultime settimane. Comunque, come ricordavi giustamente tu, un mercato, specie a Milano, che a metà seduta cedeva oltre l'1%, poi Wall Street ha comunque aperto in maniera abbastanza solida sulla parità e via via poi le borse hanno recuperato e poi hanno praticamente chiuso tutto in positivo. Da questo punto di vista, come già si diceva in apertura, le uniche pressioni forti le abbiamo viste sui titoli del lusso. Sì, lusso e viaggi, anche se i viaggi in Italia ce ne sono pochi. Comunque lusso, Ferragamo ha perso il 3-4%, la peggiore, Moncler ha lasciato sul terreno lo 0,7%, per guardare un po' l'Europa, e LVMH a Parigi ha perso il 2%, la peggiore è stata Accor, che è una holding a cui fanno capo varie catene alberghiere, che ha lasciato sul campo quasi il 3%. Quindi questi sono i due settori che, ahimè, abbiamo visto negli ultimi mesi, negli ultimi anni, quando ci sono degli attentati terroristici, finiscono sotto pressione in borsa. Questo ahimè è un classico, se così possiamo dire, cioè sono i primi settori che ne risentono, tra i migliori e i peggiori oggi, per quello che può valere Zefiro più 7,30, Biroschi più 6,70%, i peggiori Gruppo West Italia meno 7,40, Bridge Management meno 5,20%. Nel ringraziare Ceo Condina, però saluto anche Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Buonasera Marco. Buonasera a voi. Qui per un secondo usciamo da questa lunghissima, ahimè, diretta che è iniziata questa mattina, ripeto, alle 8:30, e andiamo su un'altra notizia che obiettivamente attendevamo, abbiamo parlato a lungo, in una situazione normale avremmo dedicato, immagino, un approfondimento anche articolato a questo, cioè dopo che il Banco Popolare ha accettato, diciamo così, di fare un aumento di capitale da 1 miliardo, la stessa responsabile del Consiglio di Sorveglianza delle Banche Europee, della Banca Centrale Europea, mi riferisco a Daniel Henry, ha detto: beh, mi sembra che le richieste della BCE siano state capite e, se ho ben capito Marco, è arrivato un via libera all'operazione. Sì, premesso che non è facile parlare di queste cose in questa giornata, sembra che sia arrivato questo pomeriggio una lettera, un messaggio da Francoforte. In sostanza, le nuove modalità con cui le due banche, in particolare il Banco, perché quello, diciamo, in condizioni di maggiore debolezza rispetto alla Popolare di Milano, le condizioni poste, tra cui misure di rafforzamento con una possibile quota di aumento, siano state accettate. In sostanza, la strada è in discesa. Domani si dovrebbero tenere i due consigli delle due banche, che dovrebbero quindi formalizzare, approvare un primo memorandum of understanding, e poi partirà il lungo iter, compreso un passaggio assembleare che, essendo ancora due banche popolari, potrebbe non essere rilevante. Allora, grazie anche Marco Ferrando. Chiudo la parentesi di aggiornamento finanziario, linea al traffico, e poi direttore responsabile di analisi difesa, nonché collaboratore del Sole 24 Ore, Gianandrea Gaiani, che dovrebbe già essere in collegamento. Comunque lo prendiamo intanto dopo il traffico. Focus Economia. Speciale Bruxelles. Allora, manco a farlo apposta, terminato l'approfondimento sul Banco Popolare e Popolare di Milano, è appena uscita un'altra agenzia che alcune fonti vicine al dossier della Banca Centrale Europea dicono che, attenzione, non è ancora arrivata la luce verde dell'operazione, solo la richiesta di ulteriori dettagli, per cui frena sul fatto che, contrariamente a quanto le agenzie hanno battuto mezz'ora fa, vi fosse un sì della Banca Centrale Europea, frena sul fatto che sì sia stato formalizzato e sia una luce verde per l'operazione. Staremo a vedere. Onestamente, oggi ci occupiamo, ahimè, anche di altro. Allora, dicevo, direttore responsabile di analisi difesa, nonché collaboratore del Sole 24 Ore, Gianandrea Gaiani. Buonasera, direttore. Sì, buonasera a voi, radioascoltatori. Due temi che adesso siamo ancora chiaramente a caldo, però è ovvio che più passano le ore, più si iniziano a fare anche i primi ragionamenti. Allora, al di là del tema della sicurezza che abbiamo affrontato con la STOI, con chi deve gestire i flussi turistici, perché tu puoi spostare il perimetro quanto vuoi fuori da uno stadio, fuori da un aeroporto, ma prima o poi un perimetro, nel senso che un assembramento di gente che vuole entrare allo stadio o all'aeroporto, si creerà. E lo dico perché il terrorista si è fatto esplodere prima del controllo RegiX, cioè nella parte in cui tutti possono accedere in un aeroporto, o per aspettare qualcuno che arriva, o per andare, diciamo, accompagnare qualcuno che parte, o perché semplicemente sono lì prima di fare il check-in. Lei non ha la sensazione che qui sia stata la caporetto, diciamo così, dei servizi di sicurezza belgi? Perché, insomma, quattro mesi che Bruxelles è blindata, setacciata, becca non sarà, ripeto, per sbaglio, e l'avvocato dice sta collaborando, e tutti ormai si stanno riettando a dire che questo è stato, diciamo, il segnale dato ai terroristi, a queste cellule, di anticipare l'attentato. Non si capisce se per paura di essere scoperti o perché fosse già un segnale in codice. Prego. Beh, possiamo fare diverse interpretazioni e sbizzarrirci in questo. Dal punto di vista del caso, della relazione fra attentati e caso Salah, possiamo interpretare gli attacchi come una punizione al Belgio per aver arrestato Salah, ma forse anche come un monito, considerato che il Belgio in questo momento è un po' in difficoltà con Parigi, che pretende l'estradizione di Salah, e il Belgio pone resistenza. Salah ha già detto che è pronto a collaborare, ma solo con i belgi, e non vuole essere estradato. Quindi potremmo leggerci anche questo tentativo di influenzare le decisioni domani dei magistrati, ecco, belgi, minacciando magari peggiori rappresaglie terroristiche. Poi è vero, sul piano delle infrastrutture, un aeroporto e una metropolitana sono infrastrutture strategiche, vanno protette, però ha detto bene, se cominciamo a proteggerle facendo sì che chiunque debba entrare in metropolitana la mattina debba farsi ispezionare il bagaglio con i cani che annusano cercando esplosivo, beh, dovremmo tutti alzarci, tutti quelli che vivono in grandi città, alzarci 3 ore prima del previsto per passare questi controlli, che diventerebbero da Stato di Polizia. Su questi margini gioca il terrorismo, che ha colpito sì obiettivi strategici, i grandi centri di trasporto, ma in realtà anche soft target, perché nel momento in cui non arrivi finché sei nell'area check-in, in realtà chiunque può entrare con un esplosivo fatto in casa, con dell'acetone o qualcosa di più, e lo zainetto imbottito di chiodi, e fai una strage. Il problema vero, secondo me, è politico, non tanto delle forze di sicurezza, perché cioè, pensiamo che solo i servizi segreti tedeschi valutano ad avere in Germania 700 foreign fighters, quindi combattenti già addestrati anche a fare azioni di sabotaggio, che da noi vuol dire terrorismo, e ben 43.000 estremisti salafiti pronti a fiancheggiarli. Ci rendiamo conto che ci vorrebbero forse 250.000 poliziotti solo per tenere d'occhio queste persone 24 ore su 24. Il problema è politico, perché abbiamo consentito per troppo tempo che intere quartieri delle nostre città andassero fuori dal controllo della nostra legge, della giustizia, che dove ci sono imam salafiti che predicano valori che sono assolutamente inaccettabili per noi e per chiunque creda nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e che ideologizzano giovani che poi, per diventare nuovi Salah, basta mandarli 2 settimane o 2 mesi in Siria a imparare ad uccidere, e quando tornano sono pronti a fare quello che ha fatto Salah con i suoi compagni. Insomma, abbiamo politicamente tollerato, e lo si è visto nei giorni in cui a Molenbeek la polizia cercava Salah, dove, affrontando l'opposizione di buona parte della popolazione che li contrastava, quelli che l'hanno arrestato puntavano le case e le finestre, e mi ricordavano quelle immagini di Marines a Fallujah, quando nel 2004 cercarono di occupare, e poi ci riuscirono per un po', la capitale dei jihadisti in Iraq. Insomma, voglio dire, abbiamo delle situazioni in alcune città in cui il sostegno agli estremisti, ai terroristi, è talmente forte, e questo non si può imputare ai servizi di sicurezza, ma a scelte politiche, io credo sbagliate, perché abbiamo tollerato la presenza di predicatori che sono pericolosi, perché creano i Salah, e ne creano tanti. Combattere il terrorismo senza combattere prima l'estremismo che lo genera è un errore che è essenzialmente politico. E anche qui, con tutte le differenze del caso, ricordiamo cosa capitò in Italia proprio sul terrorismo, in cui si iniziarono anche con forzatura anche della legge ad accusare non solo gli autori effettivi di atti terroristici, ma anche i cosiddetti mandanti. E da lì una polemica anche molto dura su questo, perché poi il confine tra libertà d'espressione e essere mandante di un atto terroristico è un confine delle volte labile, lo dico in maniera molto, molto chiara, ma a quel punto l'idea del fiancheggiamento da noi fu un'idea presa molto in considerazione in maniera anche molto stretta e stringente. Senta, mi dico una cosa però, Gaiani, il ministro Alfano, adesso passo alla linea, l'aggiornamento con Annalita D'Ambrogio, ma il ministro Alfano dice: beh, la nostra sistema di sicurezza sta funzionando. Secondo lei, senza tirarcela come dicono i ragazzi, certo, però è vero che da noi, per tanto un insieme di motivi, i servizi di sicurezza operano in maniera diversa, e che in Belgio obiettivamente si sono fatti trovare completamente impreparati? Ma io credo che i nostri servizi di sicurezza facciano tutto il possibile per tenere sotto controllo una situazione che è diversa da quella del Belgio. Il Belgio è un paese che proporzionalmente ai suoi abitanti ha fornito più combattenti stranieri allo Stato Islamico in Siria e in Iraq. L'Italia invece, in questo senso, mi pare che siamo sotto i 100, e noi l'Italia è molto più grande del Belgio anche come numero di abitanti, mi pare 10 volte tanto. Quindi diciamo, le difficoltà che devono affrontare i servizi di sicurezza, i servizi segreti belgi, sono molto più diversificate, molto più intense di quelle che dobbiamo affrontare in Italia, per fortuna nostra. Però il fatto che finora siamo riusciti a sventare attentati è un dato positivo, che è un punto a favore dei nostri servizi di sicurezza. Devo dire anche che c'è una valutazione politica da fare. Il Belgio, come altri paesi, è parte attiva nel contrasto allo Stato Islamico, almeno nell'ambito della coalizione che combatte in Iraq o in Siria. L'Italia ha tenuto una linea prudente, i nostri aeroplani, che sono basati in Kuwait, sorvolano l'Iraq ma non lanciano bombe, fanno solo ricognizione o individuano bersagli che poi verranno colpiti da altri aeroplani. Non abbiamo mandato i nostri mezzi militari in Siria, a differenza di altri paesi che, come la Francia o la Russia, che poi hanno subito dure rappresaglie terroristiche dall'ISIS, e anche nei confronti di un'immigrazione selvaggia, clandestina, che arricchisce trafficanti che sono notoriamente, lo dicono tutti i servizi di intelligence, in combutta con gli estremisti islamici, ISIS per primo e Al Qaeda, abbiamo sempre avuto una linea molto morbida, anzi qualcuno dice che stiamo aiutandoli a fare i soldi, visto che raccogliamo le persone in mare che loro mettono in mare e le portiamo in Europa. Allora, da questo punto di vista, okay, diciamo che l'Italia non è considerabile dall'ISIS forse un nemico formidabile in questo momento. Abbiamo anche rifiutato di partecipare ad azioni belliche contro l'ISIS in Libia. Speriamo, quindi, speriamo che lei abbia ragione. Mi rendo conto che il ragionamento parla di breve respiro, perché siamo tutti in Europa. Grazie intanto anche a Gianandrea Gagliani, appunto direttore responsabile di analisi e difesa e collaboratore del Sole 24 Ore. Annalita D'Ambrosio, rifacciamo il punto non solo sulla giornata che ci ha già raccontato con le voci, ahimè, che abbiamo raccolto sin da questa mattina, ma anche su quelle che poi sono state le varie dichiarazioni che sono susseguite. Partiamo però dagli ultimi aggiornamenti. Sì, partiamo dall'ultimo aggiornamento, perché è in corso una vasta operazione di polizia nel quartiere di Schaerbeek a Bruxelles. Lo riferiscono i media belgi, senza aggiungere dettagli per non compromettere le operazioni. Sul posto ci sono diversi veicoli della polizia blindati, ambulanze e soccorsi. Secondo altre fonti però l'operazione si sarebbe già svolta e sarebbe già terminata. Insomma, Bruxelles resta ancora sotto assedio, sicuramente in queste ore. Una cellula segreta ha colpito nella capitale belga, questo lo scrive il network dell'ISIS nella rivendicazione in francese degli attentati di oggi. E poi nel testo si legge: quello che vi aspetta sarà ancora più duro e amaro. Il fronte delle reazioni politiche, dicevi, su tutte le parole del premier Renzi, che ha detto ci vorrà del tempo per arrivare a sconfiggere questi terroristi, e ha risposto così a chi polemizza. Sentiamo. Chi oggi promette soluzioni miracolistiche non si rende conto di quanto sarà lunga questa storia, di quanto sarà difficile questa storia. Non si rende conto della sua superficialità. Chi si illude oggi urlando chiudiamo le frontiere non sa, non si rende conto del fatto che molto spesso i nostri nemici sono già dentro le nostre città. Eh sì, si cerca uno dei terroristi, quello che abbiamo visto nelle foto. La polizia belga ha detto di ricercarlo, perché non si è capito se quello che ha portato sul posto la valigia, che poi è esplosa in una delle due esplosioni nell'aeroporto di Zaventem. Mentre ricordiamo che, se mi aprite il microfono ce la faccio, mentre ricordiamo che per fortuna un'altra sacca, cintura di esplosivo, non è esplosa. Tra l'altro, gli ultimi aggiornamenti, che come tu prima ricordavi, hanno fatto notare che erano riempite anche con chiodi queste sacche di esplosivo, non è esplosa, è stata fatta brillare poi dagli artificieri belgi. Vedo adesso altre agenzie in cui il servizio di sicurezza iracheno, quindi gli 007 iracheni, sarebbero abbastanza sicuri che gli attacchi a Bruxelles di oggi siano stati pianificati 2 mesi fa a Raqqa in Siria, ma che l'obiettivo iniziale fosse un altro e si sia cambiato in corso d'opera l'obiettivo, usando Bruxelles come forma di ritorsione per l'arresto di Abdel Salah, il che ci farebbe stare ancora peggio, perché obiettivamente dei terroristi che riescono in un tempo così breve, l'arresto di Salah a poco più di 48 ore, a rimodulare, diciamo così, l'obiettivo degli attentati, ci fa capire che non siamo di fronte, diciamo, se mai qualcuno avesse avuto un dubbio, a dei dilettanti. Grazie anche per gli aggiornamenti lungo tutto il pomeriggio ad Annalita D'Ambrosio. Vi lascio adesso al speciale della Zanzara, dedicato sempre agli attentati di Bruxelles. Ricordo che Radio 24 sarà in diretta con tutti, anche con effetto notte, oggi fino alle mezzanotte. Le telefonate saranno sia come sempre lungo la Zanzara, ma anche con effetto notte, che sarà condotto da Roberto Giordano, e aggiornamenti continui da parte della redazione. Da Sebastiano Barisoni, comunque, l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.